siamo con Matteo Caccia, autore, conduttore radiofonico, podcaster e ideatore del format Don't Tell My Mom e Storie di Rinascita, che martedì 6 giugno al Dumbo parteciperà a un evento di Storie da non raccontare organizzato da BeOpen. L'evento a cui parteciperà è un dialogo con Fumetti Brutti e il titolo è Nuovi Linguaggi, una parentesi aperta. Di cosa tratterà l'incontro nello specifico e perché si parla di una parentesi aperta? Ciao, buongiorno innanzitutto. L'incontro riguarderà il senso del raccontare le storie, il senso del raccontare alcune storie e non raccontarle tutte, e soprattutto cercare di capire perché alcune storie è giusto, sensato, interessante raccontarle e altre invece è giusto tacerle in qualche modo. Poi credo che prenderà una piega molto all'improvviso la chiacchiera che faremo. Tra l'altro tu sei autore, attore, conduttore radiofonico, Fumetti Brutti è una fumettista e un attivista. Ci sarà un dialogo quindi tra due realtà che sono comunque artistiche ma sono molto diverse. Hai delle aspettative in particolare? Come pensi che sarà? Ma guarda, io leggo le cose di Fumetti Brutti, mi piacciono molto, non ho assolutamente idea di cosa capiterà durante la chiacchiera. Sicuramente sono due modi di raccontare molto diversi, uno attraverso il suono, l'altro attraverso l'immagine e le parole. Mi è già capitato di lavorare con illustratori o fumettisti e ho sempre trovato molto interessante il mettere insieme i linguaggi, il mettere insieme le cose e cercare di dare una forma che tenga in piedi l'un l'altro. E soprattutto trovo che le immagini col suono e il suono con le immagini si illuminino l'un l'altro di una luce che rende sempre tutto molto interessante. Tu lavori sia con la radio che con i podcast, che sono diventati appunto un mezzo di informazione e di intrattenimento sempre più popolare negli ultimi anni. E secondo te, in questo senso, il futuro di radio e podcast quale sarà? Cioè, un mezzo sarà surclassato dall'altro? C'è spazio per entrambi? Questa è la domanda del secolo. Io credo che la radio sia stata data per morta mille volte. È stata data per morta nel 54 quando è arrivata la TV, in Italia insomma. È stata data per morta quando è arrivato lo streaming musicale, quindi la rete, da Spotify in giù. E adesso alcuni sostengono che il podcast stia insidiando il ruolo della radio. Io credo che in realtà, come accade in alcune città, soprattutto nelle città medio orientali, in cui apre in una strada, apre un ferramenta e dopo due anni quella strada diventa una strada tutta di ferramenta, in realtà il racconto sonoro aiuti il racconto sonoro, quindi non credo che una cosa si mangi l'altra. Credo però che la qualità di quello che verrà fatto, proprio perché l'offerta finalmente è più ampia, avrà la meglio sulla risorsa che ormai ci manca di più, che è il tempo. Quindi io credo che sia fare una radio buona, sia fare dei podcast buoni, aiuterà a far sì che gli ascoltatori di radio e di podcast abbiano più voglia di ascoltare un podcast fatto bene o una radio fatta bene. Martedì appunto parteciperai a questo evento che è Storie da non raccontare e vedevo prima che però sei anche nominato per i Diversity Awards con Storie di Rinascita. Qual è il criterio con cui fai una selezione delle storie che racconti e perché sono storie da raccontare? Sono storie da raccontare perché le persone me le mandano, per cui per me il primo discrimine è che se una persona apre il suo computer, si mette a digitare 2, 3, 4 pagine di storia, la salva e me la invia all'indirizzo email, quello, se poi quella è una storia, ha tutto il diritto di cittadinanza e quindi quella per me è una storia da raccontare a prescindere dalle storie sia. Io credo che le storie siano antibiologiche, le storie sono dei pezzi di realtà, è come le leggiamo che dà loro una piega piuttosto che un'altra. Per cui le seleziono in base a quello, in base al fatto che sono delle storie, che sono degli episodi di vita. Mi arrivano delle mail, dei racconti che non racconto in radio, ma non perché siano brutte, poco interessanti, mal scritte, semplicemente perché non sono storie, perché sono delle riflessioni, perché sono delle lettere, perché sono delle pagine di diario, invece a me serve un episodio. Non so onestamente su quale criterio il programma sia stato candidato ai Diversity Awards, mi fa molto piacere ovviamente, considerato che noi non trattiamo specificatamente temi LGBTQ+, ma trattiamo qualsiasi tipo di storia. Mi fa molto felice questa candidatura, perché io credo che in questo caso sia stato premiato il fatto che in questi anni noi abbiamo sempre avuto molto rispetto delle storie, abbiamo sempre avuto molto rispetto del modo in cui le storie, la persona che ce la manda, ce la racconta. Non cerchiamo di tirare per la giacchetta una storia, non cerchiamo di darle una lettura che non sia quella che ha voluto dare l'autore. E spero che insomma questa sia la ragione per cui siamo stati candidati. Beh, in bocca al lupo e grazie mille. Viva. Ah, grazie a te, a presto.